Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo chiaramente di mercati, perché non tanto per dare l'aggiornamento di borsa, meno 0,33% in questo momento Milano, più 0,30 Parigi, più 0,90 Francoforte, più 0,50 Londra, con Saipem di nuovo sotto i riflettori, più 7,20%, Ferragamo più 5,20%, Banco Popolare più 2,70%, Fiat Chrysler più 2%, poi Prysmian più 1,60% come CNH Industrial, mentre un po' di realizzi oggi su Yux, Net-a-Porter meno 2,50%, Intesa San Paolo meno 2,40%, e poi Campari perde il 2% come Atlantia. E invece Terna perde l'1,5% come Unipol. Ma ne parleremo anche perché avremo ospite chi ha contribuito al tradizionale outlook trimestrale di Saxo Bank. Saxo Bank è una banca che è specializzata proprio nelle operazioni finanziarie multi-asset, come si chiama in gergo, per cui in investimenti online, ma ogni ciclicamente elabora un rapporto sull'andamento, le prospettive del mercato azionario, delle valute, delle materie prime, e alla luce del nuovo scenario che si sta presentando per via del rallentamento dei paesi cosiddetti emergenti, dei BRICS famosi, soprattutto sul fronte valutario e materie prime, le cose stanno cambiando. Parleremo poi anche, avremo ospite un imprenditore che insomma non ha una storia edificante. Gli imprenditori con la storia edificante li abbiamo il venerdì, dopo la poco invidiabile classifica di Focus Economia sugli sprechi della pubblica amministrazione, e come sapete sempre abbiamo un imprenditore che invece ha lanciato un'impresa. Dico in questo caso poco edificante non per l'impresa in sé, ma per il fatto che questo imprenditore, che è l'amministratore legato di ADS SPA, sarebbe Assembly Data System, è un'impresa di Pomezia Terme, opera nel settore delle telecomunicazioni e tecnologia dell'informazione, fattura 130 milioni di euro, quindi è una bella azienda. Ebbene, ci ha incuriosito la notizia che lui abbia deciso di quotarsi al Nasdaq di New York perché, per i ritardi nei pagamenti dei grandi operatori telefonici, che pagano a 180-200 giorni. Questo fa sì che la liquidità a sua disposizione sia sempre molto scarsa. Le banche, e questa è la vera nota dolente, le banche italiane, nonostante il fatturato dell'azienda, nonostante l'andamento aziendale, sono restie a concedere accesso al credito. Tant'è che lui dice basta, io mi sono rotto, vado sul Nasdaq dove mi capiscono, dove raccoglierò fondi e quant'altro. Non c'è niente di male nell'andare sul Nasdaq, c'è di male che il mondo bancario italiano non riesca a valutare un'azienda nemmeno quando fatturi 130 milioni di euro e hai prospettive di crescita. Okay? Faccio notare che l'ADS, così le banche non inizieranno a dire ma bisogna vedere, questa azienda fu segnalata da Deloitte tra le prime tre aziende italiane per crescita di fatturato. A fine anni 90 fatturava 8 milioni di euro, adesso 130 milioni, ha 1500 dipendenti, ha fatto acquisizioni importanti. Allora, che cosa deve fare un'impresa e che cosa deve essere un'impresa per ottenere credito bancario? Fatti salvi i salotti più o meno buoni, non lo capisco, perché se non lo dai nemmeno a lui, poi ce lo racconterà, non oso pensare ai piccoli imprenditori, agli artigiani e ai commercianti. E anche di questo parleremo, e poi della dialettica, insomma, anche dello scontro tra Confindustria e sindacati. Oggi il governo ha annunciato, per voce del ministro welfare Giuliano Poletti, che interverrà sulla riforma della contrattazione se le parti sociali non riusciranno a trovare una via. In questo caso, ha aggiunto Poletti, il governo si prenderà la responsabilità di prendere una decisione. Questa presa di posizione arriva dopo che ieri il presidente di Confindustria, come raccontato anche dai nostri GR ieri sera e questa mattina, parlando alla Solombada, ha affermato che non ci sono più margini di trattativa con i sindacati. Oggi risposta abbastanza dura dei sindacati, e ne parleremo perché cerchiamo di capire che cosa è in ballo. La leader della CGIL, Susanna Camusso, ha definito le parole di Confindustria stranianti, e prendiamo atto che Confindustria sceglie di non fare il confronto. Poi invece il segretario della CISL Furlan ha usato parole più morbide: serve buonsenso, il compito è nostro, la questione del modello contrattuale va ripresa usando il buonsenso, e il leader della UIL Barbagallo ha detto: spero che Squinzi riapra il confronto. Anche di questo parleremo. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Vedo già molti messaggi, ne parliamo nella seconda ora. In ballo c'è la formula contrattuale, il rinnovo dei contratti, ma soprattutto il principio che sta a cuore a Confindustria di legare i rinnovi contrattuali, gli aumenti contrattuali anche alla produttività aziendale, e su questo non c'è stata perlomeno fino ad ora sintonia con i sindacati, CGL in testa, ma non solo. Dicevo, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Dico un ascoltatore, chi mi scrive: il dubbio che le banche abbiano guardato i numeri dell'imprenditore non ti vengono mai, Barisoni? Certo che mi vengono, infatti ce lo faremo raccontare. Dico semplicemente che se hai questa crescita del fatturato, se una società di revisione come Deloitte ti definisce tra le prime tre aziende italiane come crescita di fatturato, la domanda è: ma cosa devi essere per avere un prestito bancario? Non mi dite che in questo momento mancano i soldi alle banche, perché non stanno utilizzando, non solo quelle italiane, quelle europee, non stanno utilizzando se non una minima parte dei soldi che Mario Draghi ha messo a disposizione. Non stiamo parlando del quantitative easing, ma Mario Draghi ha messo nell'operazione LTRO, se non ricordo male, ha messo a disposizione, si immaginava dai 70 agli 80 miliardi al mese alle banche a tassi assolutamente di favore, purché vengano investiti nell'economia e quindi con prestiti alle imprese, alle famiglie, ma non sui mutui. Ricorderete l'operazione che, se non ricordo male, ha circa un anno. Ebbene, l'ultimo dato che abbiamo a disposizione registrava un utilizzo bassissimo da parte delle banche europee, tra i 15 e i 18 miliardi contro attese di 70-80 miliardi, quindi le banche non stanno utilizzando questi soldi per girarli alle imprese, non devono neanche tirarli fuori loro, se vogliamo metterla tutta. Sarebbe sufficiente che utilizzassero quelli che gli dà Mario Draghi. Certo che poi devono dimostrare che le hanno girati alle imprese, non possono fare investimenti in titoli di Stato, investimenti speculativi, e non possono utilizzarli per i mutui. Esatto, è proprio il programma TLTRO per i prestiti alle imprese, ok. Questo è il problema. Vabbè, ci arriviamo tra poco. Andiamo avanti con le altre notizie in breve. Per quello che riguarda l'economia internazionale, oggi InBev, il colosso mondiale della birra che ha tra i suoi marchi Budweiser, Corona, Beck's, ha rilanciato sulla concorrente Sub Miller, che aveva rifiutato le due offerte già avanzate, l'ultima delle quali valutava Sub Miller 40 sterline per azione. Adesso ne ha presentato un'altra da 42,15 sterline per un controvalore di 68 miliardi di sterline, sono quasi 92, quasi 93 miliardi di euro. E però ha rifiutato anche questa volta, no all'offerta da 93 miliardi di euro di Hub InBev. Sub Miller ha rifiutato, continua questa guerra che creerebbe il numero uno al mondo nel settore delle birre, ma non solo, anche di altri grandissimi marchi. 92 miliardi. Volkswagen, oggi consiglio di vigilanza, ha eletto Hans-Dieter Pösch nuovo presidente. Usciremo più forti dalla crisi, ha dichiarato lui nella sua prima intervista, con chiarimenti e trasparenza. Mentre in Italia l'antitrust ha detto che conta di chiudere il procedimento per pubblicità ingannevole contro Volkswagen in qualche mese, l'ha detto lo stesso presidente Gianni Pietruzzella. In Germania si è registrato un calo inatteso nel mese di luglio, però, per cui non può essere imputabile lo scandalo Volkswagen che è scoppiato a settembre, della produzione industriale meno 1,2%, dovuto soprattutto al fatto che è rallentata l'economia cinese dei paesi emergenti, e chissà

perché avrebbe significato l'abbandono di un paese e avrebbe aperto la prima breccia nell'euro. Ora che l'accordo è stato raggiunto, spero che si apra presto la discussione sul servizio del debito greco. Nel giorno in cui la Banca Centrale Europea, questa è una buona notizia, ha abbassato il tetto della liquidità di emergenza nei confronti della Grecia, facendolo scendere da 88,9 a 87,9 miliardi, lo ha comunicato la Banca Centrale Greca. Perché questo? Perché c'è un miglioramento nelle condizioni di liquidità delle banche greche, quindi il tetto di liquidità di emergenza è stato un po' abbassato. Ma sentiamo Hollande sulla discussione che adesso ci dovrà essere sul debito anche greco. Le negoziazioni sono state laboriose. I negoziati sono stati complicati. Abbiamo fatto la nostra parte, sia Angela Merkel che io stesso, con la Commissione europea, con i Paesi membri. Le discussioni sarebbero potute fallire e sarebbe stato più che un fallimento, un abbandono. L'abbandono di un Paese la cui cultura e civiltà ci illuminano ancora. Sarebbe stata la prima crepa dell'integrità della zona euro e altri paesi sarebbero stati sotto pressione. Inoltre sarebbe stata la resa davanti alle nostre comuni responsabilità, responsabilità europee e responsabilità del governo greco. I negoziati hanno portato a un programma globale di riforme e a un nuovo sostegno finanziario. Spero che ora si traduca in una discussione sul servizio del debito. Questo fa parte della risoluzione finale. Allora, forse si va verso una schiarita in Grecia. Mi sembra che, chissà quanto pesa a livello anche di immagine lo scandalo Volkswagen, mi sembra che la Germania sia un po' più morbida in questi giorni. Poco fa Angela Merkel ha detto non utilizziamo il caso della Volkswagen per maledire tutto il settore dell'auto, metteremo a rischio migliaia di posti di lavoro in tutta Europa e già ne abbiamo pochi. Non si preoccupi, cancelliera, nessuno sta confondendo Volkswagen con l'intero settore auto. Lo scandalo è della Volkswagen, non è della... mi sembra un po' come quando ti beccano in classe che stai copiando, adesso però attenzione ragazzi, non copiamo più. No, hanno beccato te a copiare, a truccare le centraline, non hanno beccato gli altri. Nessuno sta mettendo in discussione il settore auto europeo e siamo anche molto preoccupati delle ricadute occupazionali anche nella Volkswagen. Ieri abbiamo avuto anche ospite il presidente dell'ANFI, di chi produce componentistica anche per le case automobilistiche tedesche, 4 miliardi l'anno. Siamo tutti preoccupati, ma nessuno sta maledicendo l'intero settore dell'auto. Non annacquiamo, siamo più furbi noi su questo, cara cancelliera. È sotto accusa il metodo Volkswagen e il taroccamento Volkswagen. Fine. Però detto questo, c'è una Germania forse più morbida e oggi è uscito il rapporto di Saxo Bank, che è una banca danese specializzata nel trading, nella vendita, nella compravendita di vari asset, quindi commodity, materie prime, valute, titoli azionari e investimenti online. Ha uffici in 26 paesi. L'amministratore delegato di Saxo Bank è nostro ospite oggi, Gianpaolo Bazzani. Buonasera. Buonasera. Nostro ospite, in quanto appunto avete presentato la vostra prospettiva per i prossimi mesi. Andiamo subito al sodo. I mercati emergenti hanno fatto preoccupare il Fondo Monetario nel rapporto, abbiamo visto gli ordinativi industriali tedeschi in calo oggi. Voi come siete messi sul fronte mercati emergenti, sia in termini di prezzo delle materie, di conseguenze sulle materie prime e anche andamento economico e quindi azionario di questi mercati? Dunque, sui mercati emergenti per una volta vogliamo fare professione di ottimismo, nel senso che il pessimismo che si è costruito velocemente, soprattutto in seguito al tema Cina, sia esagerato, ci siano spiragli interessanti sia a livello di valute che a livello di mercati azionari, facendo un distinguo. Allora, non vediamo un rimbalzo delle materie prime, questo naturalmente condiziona molto, cioè i prezzi resteranno bassi, diciamo. Sì, sì, non vediamo un rimbalzo perché in alcuni casi sono cali strutturali legati a eccesso di offerta, tipicamente. No, lo dico perché molti paesi emergenti, non tanto la Cina ma i veri paesi emergenti, diciamo così, vivono di materie prime che esportano. E quindi chiaramente se c'è meno domanda perché rallenta la Cina, rallentano le grandi economie, per di più tu hai anche un rafforzamento del dollaro, le materie prime si vendono in dollari, hai un doppio effetto negativo, cioè c'è meno domanda e la tua materia prima che esporti costa di più, giusto questo il chiarimento, prego. Chiaro. Sono anche, rappresentano anche ormai il 50% della produzione del mondo e quindi sono anche il 50% degli acquisti del mondo, quindi sono ormai fondamentali. Ci sarà probabilmente un calo ancora più significativo del Brasile, il caso peggiore, perché ha perso lo status di investment grade da parte di Standard & Poor's, questo incide naturalmente la reputazione sul mercato, noi italiani lo sappiamo bene, mentre un paese grande e importante come l'India dovrebbe comunque mantenere tassi di crescita elevati anche in questo ultimo trimestre e di conseguenza anche sicuramente all'inizio del nuovo anno, quindi positivi su India nella prima metà dell'anno. Dal punto di vista del valutario, anche qui, se devo dare un cavallo sicuro, la valuta che probabilmente si apprezzerà più delle altre, sempre nell'ambito dei mercati emergenti, è il peso messicano. Perché ha messo a una bilancia dei pagamenti più in ordine degli altri, la bilancia delle partite correnti non si è deteriorata nel corso dell'anno e la gran parte delle esportazioni messicane sono naturalmente dirette verso gli Stati Uniti, che con qualche luce e qualche ombra, ma comunque è un'economia che si sta riprendendo. In più loro avevano un problema opposto a quello dell'Europa, quindi avevano un'inflazione più alta e questa sta rallentando. Quindi probabilmente il Messico vivrà tra i paesi emergenti il miglior anno e quindi ne beneficerà anche il peso messicano a livello di valute. A livello di valute, a livello di materie prime, mi scusi, voi comunque vi attendete prezzi bassi, diciamo, non solo il petrolio, parlo di tutte le commodities, se ho ben capito. Sì. E livelli che non si vedevano dall'inizio del 2000, ho letto bene, nel senso che siamo tornati ai livelli del 2000-2001? Esatto. Beh, questo è un vantaggio, per noi è un vantaggio, a me dispiace per i paesi produttori, ma per noi che siamo invece paesi trasformatori, l'Italia, questo è un grosso vantaggio, perché va a calmierare l'effetto dell'aumento del dollaro, non solo sul petrolio, anche sulle materie prime di carattere alimentare o ferrose e quant'altro. Andiamo avanti con invece i mercati azionari, quindi voi vi attendete un rafforzamento del dollaro, bene il peso messicano, niente da attendersi sulle materie prime, quindi chi volesse investire sulle materie prime scommettendo in grandi rialzi, meglio che stia fermo, tassi di interesse e soprattutto ripercussioni sul fronte azionario. Tassi di interesse, bisogna partire per forza dall'America, quindi tassi di interesse e dollaro condizioneranno tutti i mercati, Cina compresa. La dilazione della Federal Reserve ci ha sorpreso, personalmente mi ha sorpreso, ormai profetizzavo che non era più questione di se, ma solo di quando e di quanto. Una chiave di lettura del fatto che abbiano voluto ritardare un inevitabile rialzo dei tassi è il ruolo della Fed, che si sta ritagliando quello di banca centrale del mondo. Un rafforzamento del dollaro avrebbe portato e porterà serissimi problemi ai paesi emergenti che sono enormemente indebitati in dollari americani. Quindi un rialzo del costo dell'indebitamento avrebbe messo i paesi più deboli in ginocchio. Se ritorniamo a quanto detto prima, avremmo avuto il Brasile con gravissimi problemi, quindi una popolazione enorme, e questo è un rischio che evidentemente la Fed vuole evitare il più possibile, vuole calmierare. Lo stesso dicesi della Cina, non avrebbe visto di buon occhio un rialzo del corso del dollaro americano, quindi il mondo vuole un dollaro debole. Gli unici a volere un dollaro forte, se non altro un dollaro più forte dell'euro, siamo appunto noi europei. Parte della manovra della BCE ha avuto appunto l'effetto di deprimere l'euro e quindi di favorire paesi come il nostro che sono dei trasportatori. Allora abbiamo una dicotomia, abbiamo la BCE in fase espansionistica, l'Asia in fase espansionistica, il Giappone che tentenna ma forse qualche altra dose di liquidità la inietterà nel sistema, dall'altra parte tutti guardano l'America e solo parzialmente la Gran Bretagna perché si aspettano un rialzo. Senta, Bazzani, però dove li metto i soldi? Nel senso che dopo il metro pubblicitario ho capito benissimo il suo ragionamento, ma mi stanno chiedendo gli ascoltatori, ok, qual è la scelta di investimento che consigliate sia sul fronte azionario, perché io ho visto il vostro rapporto, dite terzo trimestre 2015 sarà ricordato come un campanello d'allarme, considerando che le azioni globali si trovano nel loro periodo più violento. E vorrei capire questo come si traduca poi nelle scelte di investimento e anche le vostre prospettive sull'Italia. Tra 4 minuti dopo il meteo e la pubblicità. Focus Economia. Minuti. Dunque, volevo concludere l'intervista con il ministro delegato di Saxo Bank Gianpaolo Bazzani. Allora, dicevo in maniera un po' brutale, dove le metto i soldi, visto che voi dite che il terzo trimestre 2015 sarà ricordato come campanello d'allarme perché le azioni globali si trovano nel loro periodo più violento, e le vostre prospettive sull'Italia? Allora, lato investimento azionario, il senso della nostra analisi dell'ultimo trimestre dell'anno è che i mercati emergenti sono la miglior soluzione per l'investimento azionario. Il rapporto prezzo utili dei mercati emergenti è mediamente attorno a 13, comparato con il 15 degli Stati Uniti e mediamente dei mercati europei, lo rende interessante. Due paesi su tutti, Singapore e Corea del Sud, ancora una volta proprio per il rapporto prezzi utili atteso, che è rispettivamente del 12 e sotto l'11. Quindi sono i due mercati più attrattivi. In Europa l'avrei detto Germania fino a un paio di settimane fa, dove il prezzo utili è 13, ma non sono in grado di scontare l'effetto Volkswagen, che non sarà affatto banale, non lo sarà per il mercato tedesco, non lo sarà per il settore automobilistico, non sarà per l'Europa in genere. Per quanto riguarda i bond, allo stesso modo, positivo sui mercati emergenti perché sono pochi quelli che vengono minacciati dalla debolezza del petrolio e il rapporto prezzo-rischio è interessante, affidandosi naturalmente più a un ETF e a un fondo che non andando a scegliere il singolo titolo obbligazionario in un'ottica più di medio periodo. Sull'Italia mi è capitato di dire che siamo al momento del dentro fuori, c'è una situazione di condizioni eccezionali, quelle che diceva lei, liquidità ampia alle banche fornite dalla BCE, un euro debole e prezzi dell'energia bassi. Siamo un paese di trasformazione, dobbiamo cogliere questa opportunità. Se non la cogliamo, e non durerà a lungo perché i tassi si rialzeranno, i prezzi dell'energia forse riprenderanno tra 3-5 anni, se non cogliamo l'occasione di migliorare i nostri conti, allora rischiamo di essere davvero la prossima Grecia nell'arco di un quinquennio. Le percentuali sono vicine, abbiamo un debito prodotto interno lordo calcolato con la metodologia OCSE al 156%, è decisamente non sostenibile. Dovesse arrivare un'altra scossa alla liquidità, dovesse questa venire a mancare, allora saremo in guai seri. Quindi dite dentro fuori, cioè è un'occasione imperdibile, se posso tradurre questo dentro fuori come situazione di contesto per l'Italia, ho capito bene? Sì, assolutamente, l'ultima occasione probabilmente. Adesso l'ultima occasione, cioè, parere mio, certo, nella vita condizioni così non ricapiteranno per un po', l'ultima occasione qua tutte guidare con una mano sola. Grazie all'amministratore delegato di Saxo Bank. No, però è importante, questo vale sia per imprenditori, businessmen, banche, ma anche per il governo, cioè ricordarsi sempre che questa occasione, questa crescita che stiamo faticosamente ottenendo, ancora non sufficiente, la stiamo ottenendo nel migliore contesto possibile, quindi attenzione a lodarsi troppo per evitare di sbrodolarsi poi più avanti. Grazie ancora a Gianpaolo Bazzani. Andrea Fontana, veniamo ai mercati di oggi. Quelle di Saxo Bank erano infatti le prospettive per il medio termine, non lungo, ma medio. Meno 0,80% oggi Milano, più 0,14% Parigi, più 0,70% Francoforte, Londra invariata e il Dow Jones è invariato. Euro su dollaro a quota 1,12,50, negativa Intesa San Paolo del 2,90%. Campari del 2,70, Atlantia del 2,40, Jux meno 2,30, Tenaris meno 2%. Fronte opposto di nuovo in forte evidenza Saipem, più 7,80%, e poi Ferragamo più 4,60%. Rimbalzato oggi anche Fiat Chrysler con il settore auto più 1,40%. Allora Andrea, partiamo da Saipem da un lato e Intesa San Paolo dall'altro. Pronto? Mi senti? Sì, sì, ti sento. Prego. Ok, Saipem ha potuto sfruttare la buona indicazione del settore petrolifero. Il petrolio è arrivato quasi alle soglie dei $50 a New York e poi ha corretto sull'indicazione delle scorte americane superiori alle attese, ma da giorni ormai quello che tiene banco per Saipem è la speculazione su come sarà fatto il riassetto che porterà Eni a deconsolidare la controllata dei servizi per il petrolifero e per il gas e la cassa depositi e prestiti ad entrare nel capitale, probabilmente attraverso un aumento di capitale, ma il mercato scommette sul riassetto. In negativo invece sotto i riflettori è finita proprio Intesa San Paolo, ha perso quasi il 3% sul finale, sulle indiscrezioni che la compagnia di San Paolo, che detiene oltre il 9% del capitale, possa decidere di vendere circa un 4%, quindi quasi la metà della sua partecipazione. Una indiscrezione che qualche analista ritiene azzardata, perché se non altro per la tempistica, perché ci sarà il rinnovo dei vertici il prossimo anno, quindi è difficile che compagnia San Paolo possa decidere di vendere nel breve termine, ma nei prossimi due anni questo potrebbe succedere. Ancora, bene oggi le commodities in generale, negativa Campari del 2,70%, Atlantia del 2,40%, Jux Entaporté un po' di realizzi meno 2,30%, Tenaris meno 2%, A2A meno 1,70% come Terna e Unipol, Mediobanca meno 1,60% come Luxottica e Finmeccanica. Tra i positivi invece anche Ferragamo più 4,60%, Banca Popolare più 1,60%, Fiat l'abbiamo detto, CNH più 1%. Si muoveva bene il risparmio gestito, poi è un po' ritracciato, diciamo così, no? Sì, sicuramente i primi dati, come spesso avviene nella prima settimana del mese, i primi dati sulla raccolta dei fondi ha fatto muovere diversi titoli, tra tutti Azimut sul FTSE MIB è stata la migliore, ha guadagnato lo 0,7%, ma prima era anche più in alto grazie ai dati della raccolta. Raccolta netta a settembre a 318 milioni, più bassa di quella di agosto, ma comunque positiva. Sui 9 mesi si superano i 5 miliardi, quindi questo settore peraltro su cui c'è molta attenzione, anche perché è una parte del business di Poste che sta per arrivare sul mercato nel mese di ottobre. Allora, migliori e peggiori, primi sui motori più 13,96%, di My Group più 10,30%, Saipem abbiamo detto più 7,80%, Media Contact più 7,5%, fronte opposto Saras meno 6,40%, e poi Ambro Mobiliare meno 4,40% come Banca Ifis, meno 4,20% Recordati e meno 4% anche Vita, società editoriale. Adesso parliamo di banche, continuiamo a parlare di banche, ma non per i valori azionari, devo dire poco mosse, altre, Monte dei Paschi ha perso lo 0,40%, Unicredit lo 0,70%, ma perché dopo il traffico vorrei raccontare una storia che non è che sia paradigmatica, però fa parecchio girare. È la storia di chi se ne va e sbarca sul Nasdaq semplicemente perché in Italia, nonostante l'azienda che ha e di cui hanno messo delegato, non riesce a ottenere prestiti bancari dopo il traffico. Focus Economia. Allora, mettiamola così, c'è un'azienda che si chiama ADS, fondata a Pomezia Terme 30 anni fa da 4 elettricisti romani, fatturava negli anni, fine anni 90, 8 milioni di euro, adesso ne fattura più di 130 di milioni di euro, ha 1500 dipendenti, recentemente ha acquisito anche la concorrente Nextira One, l'età media dei dipendenti è di 27 anni, l'età media dei managers è di 40 anni. La società di revisione e consulenza Deloitte l'ha segnalata tra le prime tre aziende in Italia per crescere di fatturato, si occupa di telecomunicazioni e tecnologia dell'informazione. Tu vuoi dire, un'azienda così, ci sarà la fila di banche che grazie a Mario Draghi hanno anche questi miliardi a tassi stragevolati purché li investano nell'economia reale. Siccome le accuse sempre le imprese non hanno piani industriali seri, delle volte è vero, non hanno dei piani industriali seri, non sono trasparenti, noi vogliamo vedere le potenzialità, non solo i fatturati degli ultimi anni, vogliamo vedere le prospettive, così bene. Immagino che, visto anche che la media delle imprese italiane è molto più piccola, un'impresa del genere sia un piccolo gioiellino che le banche corteggeranno come fosse l'ultima donna sulla faccia della terra. Chiedo a Pietro Biscu, che è amministratore delegato di ADS SPA. Buonasera, dottor Biscu. Buonasera, grazie. Le chiedo se è così, se le banche vi stanno corteggiando quasi a livello di stalking. Biscu. Assolutamente no. Purtroppo il problema è... La sentiamo un po' basso, può alzare il volume e anche in regia. Mi scusi, prego. Sì, buonasera innanzitutto e rispondo alla sua domanda. Purtroppo il problema esiste ed è molto penalizzante per delle aziende che si stanno oggi consolidando sul mercato italiano. Aziende che si nascono nell'87, abbiamo quasi 30 anni di storia, ma abbiamo avuto dal 2009 ad oggi un'evoluzione importante che abbiamo supportato con l'autofinanziamento. E questo chiaramente crea... Cioè, lei mi sta dicendo che non avete la coda delle banche che vi corteggiano, che vogliono a tutti i costi prestare a voi i soldi? No, tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi, lo dico con molto orgoglio, ma ripeto, sacrificio e sofferenza l'abbiamo fatto solo con le nostre forze. Senta Biscu, però mi faccio capire una cosa, voi adesso avete annunciato il motivo per cui avete fatto notizia di che a questo punto andrete a quotarvi al Nasdaq di New York perché avete un problema di liquidità, nel senso che le aziende vostre clienti pagano a 180-200 giorni, gli grandi operatori telefonici, e nel frattempo le banche non vi danno accesso al credito, ho capito bene? Sì, è corretto. Cioè, il problema non sono solo le banche, ma è tutto il sistema che non riesce a cogliere il nuovo. Anzi, viene il nuovo purtroppo viene rigettato. E quindi la nostra strategia la prevede di andare al Nasdaq, ma anche di portare l'azienda a muoversi sul mercato americano. Un mercato dove vengono riconosciute le competenze e le qualità delle aziende e dei manager. Allora, la sento un po' depresso da questa cosa. Beh, adesso non è una brutta cosa quotarsi al Nasdaq, c'è di peggio nella vita. Io, anzi, potrebbe essere una grande scelta. Ma noi non rientrava nelle nostre... Non rientrava nelle vostre... Allora, facciamo una cosa. La quotazione. Ecco, volevate evitare la quotazione. No, beh, anche questa è una scelta. Biscu, resti con noi, perché adesso ho il GR24 con gli ultimi aggiornamenti. E poi, dopo il GR, vorrei capire concretamente, proprio come esempi concreti, che cosa le hanno risposto le banche. Io non voglio criminalizzare le banche, ma non è possibile. Tutto il resto è fuffa se nemmeno un'azienda così riesce a ottenere un prestito. Diciamocela tutta, no? Poi uno può dire, ma bim bum bam. Non voglio neanche sapere perché in altri casi abbiamo visto un miliardo e sette di prestiti a grandi o presunti grandi imprenditori dove poi non si riesce a rientrare. Qua mi interessa capire perché non sfruttano nemmeno lo strumento che gli ha messo a disposizione Mario Draghi da questo punto di vista. Resti con noi Biscu, GR24. Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Oscar, ce l'ha con te questo? Ma no, ce l'ha con no, te, ce Alessandro, l'ha con te. Ma non è vero, dai. Allora, ce l'ha con tutti e due. Ah, sì, perché c'è una grande novità. Dal lunedì al venerdì alle 8:15 su Radio 24 c'è Attenti a Noi Due. Che poi siamo noi due, Oscar noi Giannino due. E Alessandro Milan. Non perdetevelo su Radio 24 dalle 8:15 lunedì e venerdì. Attenti a Noi Due. Il segnale orario vi è offerto da Gran Moravia con l'etichetta multimediale ti fa visitare la sua filiera ecosostenibile. Focus Economia. 18:08 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso arriviamo anche al rottura delle trattative tra Confindustria e sindacati. Vorrei concludere però l'intervista con Pietro Biscu, amministratore delegato di ADS SPA, che, come raccontavo nella prima parte, è un'azienda nata 30 anni fa dall'idea di quattro elettricisti romani, da 8 milioni di fatturato a fine anni 90, 8 milioni di euro tradotti, è arrivata a 130 milioni, 1500 dipendenti, età media molto giovane sia dei dipendenti che dei manager, e è attiva nel settore delle telecomunicazioni, della tecnologia e dell'informazione, e va a quotarsi al Nasdaq perché, come ci spiegava Biscu, non riesce a ottenere liquidità dalle banche. Biscu, mi dicono gli ascoltatori che forse alcuni scrivono che hanno un'azienda di 2 milioni di euro di fatturato e hanno la fila delle banche, altri sono molto d'accordo con lei invece che le banche non diano credito se non col contagocce, ma mi chiedono molti ascoltatori perché lei è così triste e depresso nella quotazione al Nasdaq. No, noi non siamo né tristi né depressi, anzi abbiamo molto entusiasmo, e l'azienda vive di passione. ADS veramente, la forza nostra è la passione. Considerate che tutto quello che l'azienda produce viene reinvestito, e nessuno, a partire dagli azionisti a finire con gli operai, prende un euro al di fuori dello stipendio. Il dispiacere è dovuto purtroppo dal fatto che viviamo in una società che è meritocratica al contrario, perché vediamo che purtroppo vengono puntualmente sostenute quelle aziende che sistemano i propri conti con la cassa integrazione, con gli ammortizzatori sociali, e poi non vengono aiutate tante realtà come ADS, che si è nata 30 anni fa, ma è una vera e propria start-up. Quindi quando si sente parlare di start-up a me viene veramente da sorridere. E gli imprenditori, quindi, che hanno voglia di rischiare sul territorio italiano, sono completamente abbandonati. Consideri che noi siamo passati dalle 30 persone del 2009 alle 1500 attuali, okay, senza ricevere supporto dal sistema. Ma lei dov'è che si è sentito più abbandonato? Dalle banche, dalla burocrazia, da che cosa? Allora, sicuramente dalle banche, perché un problema che ha un'impresa come la nostra è il tempo. Viviamo in un mercato dove le marginalità, se sei molto bravo e riesci a produrre, sono veramente basse, perché gli stimi sono molto aggressivi. C'è molta concorrenza, competizione soprattutto nel campo tecnologico, e quindi non può una banca chiedere la documentazione ad un'azienda, far aspettare l'azienda 2 mesi e poi negare dei finanziamenti. Tutto quello che noi stiamo facendo è solo, quindi il rapporto ADS banche è solo anticipo fatture, anticipo contratti. Questo secondo me è vergognoso. Mi scusi, ma perché, quando le hanno negato una linea di credito, con quale motivazione le hanno negata? Perché? Diverse, ma poi sono sempre le stesse. Le porto un esempio: il problema, questo è un problema del settore delle telecomunicazioni. C'è una concentrazione del fatturato negli ultimi 5 mesi dell'anno, mentre nei primi mesi dell'anno gli operatori, i vendor tecnologici, comunque ci mettono un po' di tempo a riavviare la macchina, quindi ordini, accordo quadro, contratti. E questo genera da parte delle banche delle preoccupazioni, perché vedono quindi un concentrarsi del fatturato negli ultimi mesi dell'anno, mentre nei primi 6-7 mesi dell'anno c'è un ritardo nella fatturazione. Questo preoccupa molto. Un altro motivo, un'azienda che è cresciuta come noi così tanto spaventa le banche, perché quello che ci viene detto, come le aziende crescono così velocemente possono anche precipitare. Ho capito, però allora ritorniamo al discorso delle start-up. Ritorniamo al discorso che se in un modo è troppo morbido, in un altro è troppo, cioè che non va mai bene niente, nel senso che adesso non posso diventare volgare. Posso aggiungere solamente una cosa: quello che veramente più dispiace è che oggi le banche, le istituzioni hanno tutti gli strumenti a disposizione per vedere se dietro a delle realtà ci sono delle persone serie e sane. Secondo me quella è la prima analisi che va fatto su un'impresa. Capire se quelle persone ci mettono la faccia, se arrischiano, Noi adesso faremo una ricapitalizzazione. Mi scusi, lei le banche le ha provate tutte? Non lo dico per, come domanda proprio. Sì, le abbiamo provate tutte. No, perché mi scrivono da alcune banche. Non so, non posso però fare pubblicità così, sennò diventa un massacro. Mi scrivono da alcune banche anche importanti, lo finanziamo noi, se è interessato mi faccia chiamare, poi le giriamo la segnalazione. Io vorrei essere smentito, ti dico una cosa, il settore delle telecomunicazioni è un settore trainante per il paese Italia, ma non solo per il paese Italia, ci sono delle opportunità veramente serie. Oggi i grandi riferimenti del mercato sono in grossa difficoltà, parliamo di Sirti, di Altera, aziende veramente storiche italiane. Noi con estrema umiltà pensiamo di poter dare molto all'Italia e dall'Italia spostarci anche all'Europa, ma come brand italiano. Noi non vogliamo scappare negli Stati Uniti, no, vogliamo farci riconoscere come realtà italiana anche negli Stati Uniti per poi poter tornare in Italia anche. Certo. E questo è un po' il nostro progetto. Allora, l'unica cosa su cui lei diceva, noi non abbiamo voglia di... Allora, la storia si commenta da sola, adesso io non voglio processare le banche, il problema è che non se ne esce, questo è un esempio, non varrà solo come esempio, però quando poi il dato aggregato, e lo ricordavo all'inizio del programma, sui ricorsi ai finanziamenti messi a disposizione dalla Banca Centrale Europea, il TLTRO, a tassi assolutamente agevolati purché vengono investiti questi soldi nell'economia reale, quindi prestiti alle famiglie, non per i mutui, prestiti alle imprese, dicevo, quando il dato aggregato vede le banche europee chiedere 15-18 miliardi contro i 70-80 miliardi attesi, vuol dire che non stai usando questo strumento. Ora, ripeto, non è un processo alle banche in senso lato, però che cosa deve fare uno? Deloitte vi ha collocato fra le prime tre aziende in Italia per crescita di fatturato. L'unica cosa su cui non sono d'accordo con lei, Biscu, è questa così amarezza nel doversi quotare al Nasdaq. La borsa esiste per raccogliere capitali in maniera alternativa al canale bancario, per cui perché siete così tristi di andare al Nasdaq? No, tristi perché io chiaramente fotografo la situazione attuale dell'azienda e la quotazione potrebbe rompere, diciamo, l'incantesimo che oggi viviamo in ATS, un'azienda molto unita dove è il gruppo a vincere, è il gruppo a fare la differenza. Ho capito, ma adesso non è che state andando, cioè, andare a raccogliere i soldi sul Nasdaq. Lei ha paura di che cosa? Del controllo, del titolo che oscilla, le trimestrali? Mi dica? No, l'unica paura è che chiaramente con la quotazione è la parte finance che ha il sopravvento sulla parte prodotto. Lei dice che verrà valutato solo per i multipli, diciamo, di carattere finanziario. Ho capito, questo è vero, insomma, è un canale alternativo. Io non sarei così triste, onestamente, di andare a Nasdaq. Sono molto triste, ancora una volta, nel sentire che veramente nel fronte burocrazia, nel fronte credito bancario, sono riusciti a valutarla correttamente. Poi non poteva dare anche un'altra valutazione. Vedo che mi scrivono in molti, immagino direttori di banca o capi area, che dicono da noi non è passato, giri il nostro numero, adesso se lei ci richiama dopo o fuori dalla diretta, gli giro i numeri dei bancari che ci stanno scrivendo. Ripeto, Biscu, su con la vita e in bocca al lupo. Solamente una cosa come mi dica. Che genera sempre un po' d'amarezza, l'azienda LED a Pomezia. Abbiamo 16 sedi in tutta Italia e siamo stati premiati da Deloitte e ci tengo a sottolineare che noi non abbiamo nessun rapporto commerciale con Deloitte, quindi è stata una cosa spontanea e siamo rimasti anche sorpresi e per questo ringraziamo Deloitte, ma un'azienda che ha 1500 dipendenti in Italia non è stata neanche contattata dal sindaco di Pomezia. Quando parlo che le istituzioni sono distanti, noi potremmo dare molto al territorio di Pomezia, molte città italiane vivono nel degrado, Sì, certo. Penso che sia un giusto Ma sa, il sindaco di Pomezia avrà altre cose da fare, immagino, non ci siamo mai occupati di Pomezia a memoria nella nostra poco invidiabile classifica, né vorremmo occuparcene, però raccontiamo di consiglieri comunali da anni e anche sindaci delle volte più interessati a capire come si fa a prendere gettoni di presenza che altro, se non voglio buttarla così nel populismo, però insomma, caro sindaco di Pomezia, non so se ci sta ascoltando, o un consigliere comunale, se non è preso dalle riunioni del consiglio comunale, boh, ma avete una realtà del genere in un'area che non mi sembra esattamente, capito, la Ruhr tedesca, utilizzatela, parlate, sentite se ci può essere anche una ricaduta sul territorio. Su questa ragione, però, su con la vita Biscu, vedrà che il Nasdaq non è tutto, non è un calvario. Mi rendo conto però benissimo che l'amarezza ci sia, perché quando cresci in questo modo, crei occupazione, fai fatturato, sei in un settore ad alto valore aggiunto, sei italiano, beh, vedere che proprio non ti si fila nessuno, per usare un linguaggio poco finanziario, non è il massimo. Però su con la vita, e grazie, in bocca al lupo per la vostra nuova avventura. Grazie a Pietro Biscu, mi sono legato di ADS SPA Traffico. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta Focus Economia. Io ho voluto questa riunione oggi perché volevo capire qual era l'opinione delle nostre associazioni che prevedono di dover rinnovare i contratti nei prossimi 6 mesi più o meno. Il risultato è che ci siamo resi conto assolutamente dell'impossibilità di portare avanti qualunque trattativa con il sindacato, quindi per noi non abbiamo margini di manovra per poter proseguire un contratto, un colloquio sui contratti nel modo tradizionale, quindi per noi è chiuso. Trovo la dichiarazione di ieri di Confindustria davvero un po' straniante. Se non fosse un tema serissimo, bisognerebbe dire: siccome il pallone non è quello che voglio giocare io, allora non gioco più e me ne vado. Come se le trattative fossero dei luoghi in cui uno fa una proposta e se la sua controparte non è d'accordo con quell'ipotesi, allora non si gioca più. Credo che sia uno strano modo di intendere i negoziati. Chiamiamo le cose con il loro nome. Confindustria ha l'opinione che bisogna reagire a questa crisi abbassando il valore e la tutela dei salari. Noi pensiamo esattamente l'opposto. Se non si ridà il segnale di riprendere la contrattazione nazionale, il segnale che viene fuori è pericoloso per il paese e io sono seriamente preoccupato. Allora, abbiamo sentito nell'ordine la dichiarazione di ieri del presidente Confindustria Giorgio Squinzi, che ha detto al termine di un incontro in Asse Lombarda non ci sono margini di trattativa, il capitolo è chiuso. Dal sindacato sono mesi, almeno da luglio, che ci prendono a schiaffoni e rinunciano a tutte le nostre aperture, ne prendiamo atto. Poi avete sentito la segretaria della CGIL Susanna Camusso, dice le parole di Confindustria sono stranianti, e l'ultimo era Barbagallo, segretario della UIL Carmelo Barbagallo, che ha detto spero che Squinzi riapra il confronto. Oggi è intervenuta anche la segretaria della CISL Anna Maria Furlan, aggiungendo che la questione del modello contrattuale va ripresa usando il buonsenso. Nicoletta Picchio, che segue i temi proprio di Confindustria e sindacati per il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Che cosa c'è in ballo? Al di là insomma, delle dichiarazioni che abbiamo sentito di Squinzi, di Camusso e Barbagallo, la Confindustria che cosa propone e dov'è che si è arrivati, diciamo, al non comprendersi, a quello che Squinzi definisce, diciamo, prendere solo gli schiaffoni senza nessuna apertura? Beh, in ballo c'è quello di cambiare l'impostazione della contrattazione mantenendo il contratto nazionale, però dando molto più spazio alla contrattazione aziendale e legando il salario alla produttività. E questa è la risposta che ha sempre dato Squinzi all'affermazione che ha fatto prima la Camusso, che voi avete mandato in onda, quando dice la Camusso che Confindustria vuole abbassare i salari, e la risposta che ha sempre dato Squinzi in queste settimane, anche in questi ultimi giorni, è che noi non vogliamo abbassare i salari, Confindustria non vuole abbassare i salari, ma vuole soltanto legare i salari alla produttività. E questo anche perché c'è un problema di competitività del nostro paese e delle imprese, anche in base agli ultimi dati del centro studi di Confindustria, ma che sono comunque diciamo condivisi dai vari centri studi, la nostra competitività rispetto alla Germania, che è un paese manifatturiero come il nostro, di 30 punti. E quindi su questo... Di 30 punti più bassa, immagino. Certo, sì, 30 punti più bassa. E quindi dal momento che dobbiamo competere a livello internazionale con le industrie mondiali, ma anche con quelle tedesche, chiaramente questo ci penalizza nella competizione a livello mondiale. Quindi questo è il punto, c'è un'impostazione diversa con un contratto nazionale che resta, ma che, come dicono le imprese, deve avere minori contenuti monetari. Cioè, e quindi, se ho ben capito, un contratto nazionale che fa da cornice delle varie categorie, c'è cioè in ballo il contratto dei chimici, ce ne sono altre, che fa da cornice fissa, diciamo, e poi invece una maggior forza in quella che una volta si chiamava contrattazione di secondo livello, cioè quella che si fa in azienda, e dove si vuole dare più possibilità alle singole imprese di legare gli aumenti, gli scatti salariali all'aumento della produttività. Poi è questa che è l'impostazione anche del governo, come ha detto anche stamattina sul nostro giornale Filippo Tazzè, responsabile economico, ha detto proprio: si punta ad avvicinare la contrattazione ai luoghi di lavoro potenziando la contrattazione decentrata. Quindi questo è un po' il modello che si persegue. Poi ovviamente il diavolo sta nei dettagli, per cui poi quando uno si siede al tavolo bisogna vedere cosa resta contratto nazionale, dove si tratterebbe di ridurre la parte monetaria, anche perché con un'inflazione così bassa si è arrivati al paradosso, diciamo, che nell'ultima tornata contrattuale, in base ai calcoli, sono diciamo le imprese che in alcuni tavoli, in alcuni contratti, hanno dato tra i 70 e gli 80 euro in base ai calcoli di più rispetto a quello che poi è stato l'andamento dell'inflazione, facendo il calcolo ex post dopo 3 anni di vigenza dell'ultimo contratto. E quindi questo è uno scenario in genere insolito, perché in passato c'era sempre qualcosa di più da dare, invece questa volta c'è uno scarto che dovrebbe essere a vantaggio delle imprese. Un extra costo che è stato proprio calcolato sempre dal centro studi di Confindustria, l'uscito non perché è uscito sabato mattina, quindi sono dati freschi, un extra costo per le imprese di 4 miliardi. Con l'inflazione così bassa, se non deflazione, sì, questa volta rispetto a anni scorsi in cui gli adeguamenti, i rinnovi contrattuali non riuscivano a tenere il passo delle volte all'aumento del costo della vita, questa volta invece hanno dato anche di più. Oggi che non è strano nel senso dal punto di vista della deflazione, perché questo poi può essere la ricaduta. Detto questo, oggi è intervenuto il ministro Poletti, Nicoletta, ha detto: beh, insomma, se le parti, e quindi imprese e sindacati, non troveranno un accordo, interverrà il governo sulla riforma della contrattazione. A questo punto, da quello che tu vedi, sarà inevitabile o oggi o c'è ancora possibilità di una riapertura della trattativa senza l'intervento del governo, ammesso che sia un intervento diciamo da vedersi in maniera negativa? Guarda, oggi pomeriggio proprio si è appena concluso un vertice tra i 3 segretari generali CGIL e CISL e SUIL, in cui dicono: siamo pronti alla riforma, vogliamo riaprire il confronto se vanno avanti in contemporanea anche le trattative per i contratti, che era un po' quella la loro posizione. Ma c'è stata una riunione oggi pomeriggio, si è conclusa da poco, proprio dopo questa presa di posizione di Confindustria. Non penso che Confindustria a questo scoccare di dita riapra immediatamente il tavolo, visto che la posizione dei Squinzi è stata molto netta, argomentata, e anche prima c'è stata una dichiarazione proprio di Squinzi che per ordine Camusso, che ha detto non volevano giocare, eccetera, ha risposto: beh, ho preso il pallone che nessuno voleva giocare. Quindi insomma, ci sono ancora queste schermaglie. Vedremo, perché comunque il governo ha detto: questo è un argomento delle parti sociali, speriamo che le parti continuino il dialogo. Vediamo, non sarà immediato, prima c'è la legge di stabilità, quindi già passerà un mese, 2 mesi e si andrà più avanti. Nel frattempo già stanno discutendo gli alimentaristi, il contratto degli alimentari aperto. So che oggi i sindacati dei chimici hanno mandato una lettera a Federchimica per chiedere l'apertura delle trattative già dal 12 della prossima settimana. Quindi sono settimane un po' cruciali, perché le piattaforme sono pronte. Ecco, se partono gli alimentari, vanno i chimici, anche i metalmeccanici hanno presentato la piattaforma ai sindacati a Federmeccanica, quindi sono delle giornate abbastanza cruciali. In più a fine mese ci sarà questo decalogo che ieri Squinzi ha annunciato, delle linee guida per le imprese, per cui anche se non si è fatta la riforma interconfederale del modello contrattuale, ci sono delle linee guida che poi verranno indicate, che comunque le categorie dei singoli contratti. Per i vari rinnovi contrattuali di categoria. Grazie anche a Nicoletta Picchio del Sole 24 Ore, veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni le auguro di una buona serata. Il programma torna domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.